il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Parliamo di insetti, un argomento sempre più all'ordine del giorno. Se da una parte si cerca di eliminarli quando sono fastidiosi per l'uomo o per le coltivazioni, dall'altra si cerca anche di difenderli, come per le api, che sono anelli indispensabili per i nostri ecosistemi, o per esempio per il banco da seta, di cui abbiamo più volte parlato in questa trasmissione. Si parla di insetti anche come cibo per il futuro, sia per l'alimentazione animale che umana, e in altri continenti questa non è certamente una novità. C'è anche chi ha pensato però ad altri utilizzi per gli insetti e ne ha fatti una professione. Oggi abbiamo ospite, ad esempio, il dottor Pierpaolo Poli, giovane imprenditore proprio nel settore degli insetti, che ha un'azienda che si chiama Bugs, che ha sede a Ponzano Veneto. Benvenuto, dottor Poli, e le chiediamo subito da dove nasce questa passione intanto per questo campo. Buongiorno. Questa passione mi è stata appiccicata, diciamo, anche dal mio socio, che è Emanuele Rigatto. Lui fin da bambino è sempre stato appassionato di insetti e noi ci conosciamo da tempo, e quindi diciamo che è stato un po' lui l'artefice di questa mia passione. E sostanzialmente abbiamo pensato a questa attività perché, come dicevo nell'introduzione, gli insetti sono quasi sempre visti come un problema. E sì, facendo i nostri studi di biologia all'università abbiamo visto che potevano essere un problema, ma potevano anche essere una risorsa, e di conseguenza abbiamo voluto investire su questo e abbiamo cercato di valorizzare le cose buone che possono avere. Ecco, parliamo di insetti, la prima cosa che mi viene in mente, una trasmissione di cui abbiamo dedicato spazio qualche tempo fa, poche settimane fa, era quella del bacco da seta, il rilancio di cui il Veneto è regione protagonista del bacco da seta. Voi siete coinvolti in questo rilancio con il ruolo di formazione? Sì, noi stiamo collaborando con la Coldiretti di Treviso e con l'associazione dei agricoltori che è nata da poco, e ci siamo messi a disposizione per fornire ai nuovi allevatori della conoscenza. Noi è da qualche anno che li alleviamo e quindi possiamo dare supporto in quello, e possiamo dare supporto soprattutto nella schiusa e nelle prime fasi di allevamento delle larve. Sì, supporto, perché sono tutte conoscenze che i nostri nonni e bisnonni avevano, ma si sono perse nel tempo. Adesso che c'è questo ritorno anche all'allevamento dei bacchi da seta, sono da recuperare con magari conoscenze anche moderne. Esattamente. Ecco, voi però non avete iniziato l'allevamento dei bacchi pensando principalmente a questo, ma li utilizzate insieme anche ad altre farfalle per motivi commerciali, didattici. Sì, abbiamo pensato a dei kit didattici con i bacchi e con delle farfalle, in modo da far vedere ai bambini, soprattutto dell'età scolastica, qual è il ciclo vitale di questi animali, che spesso sono troppo poco conosciuti. Noi abbiamo avuto la fortuna, quando eravamo piccoli, di passare parecchio tempo fuori all'aperto e magari queste cose le potevamo osservare direttamente. E le nuove generazioni purtroppo non hanno questo privilegio, e quindi ci è venuto in mente che potevamo dar loro la possibilità comunque di osservare questi magnifici animali strani, che sono parecchio diversi da noi. Comunque potevano osservarli comodamente in classe o a casa attraverso i kit che abbiamo pensato. Cosa sono questi kit e di cosa si compongono? Allora, all'interno dei kit c'è tutta l'attrezzatura e il mangime anche, che abbiamo messo a punto noi, che permettono di allevare proprio le larve, quindi i bruchi, dai primi stadi fino poi allo stadio di pupa, crisalide, e per poi veder sfarfallare l'adulto. Quindi una scuola, una classe, un insegnante che fosse interessato potrebbe recuperare uno di questi kit e in classe fare una lezione e vedere nel corso dell'anno tutta l'evoluzione da bruco a farfalla. Esattamente, l'esperienza dura dai 30 ai 40 giorni. Quindi c'è anche tempo proprio per fare delle attività didattiche appositamente studiate che che corrono parallele poi allo sviluppo della parte viva, quindi dei bruchi. Ecco, voi avete detto che avete anche messo a punto l'alimentazione. Di che cosa si cibano questi bruchi? Allora, in natura si cibano di piante, quindi foglie. E ogni specie, diciamo, si è specializzata per alimentarsi di una sola o qualche specie. Noi siamo riusciti, dopo varie prove, vari studi, a ottenere un mangime molto simile, però un mangime molto più comodo, nel senso che è una polvere che va semplicemente idratata e va cotta e va a sostituire perfettamente quello che poi in natura è la foglia. Ecco, prima abbiamo accennato anche la questione dell'alimentazione, ma ne parliamo nella seconda parte di questa trasmissione, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sort of getting old that made us restless. It was just like a movie. Just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. Just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young. When we were young, Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di insetti, stiamo parlando in particolar modo con il dottor Pier Paolo Poli dell'azienda Smart Bugs, che proprio dell'allevamento e anche dell'utilizzo degli insetti a fini commerciali ha fatto un po' il proprio business. E ci siamo lasciati con l'immagine con la promessa di parlare di alimentazione, perché da un po' si parla di insetti come possibile cibo sia per l'alimentazione animale che umana, però questo non è ancora possibile in Italia, ma è una delle cose che voi vorreste portare avanti. Sì, noi siamo partiti anche con quell'idea, quindi abbiamo cominciato a sviluppare delle metodologie di allevamento che portassero ad avere delle produzioni costanti di insetti per l'alimentazione umana e anche per la produzione di farine proteiche per la zootecnia. Purtroppo però siamo fermi ai box, diciamo, perché i regolamenti non si sbloccano e non siamo ancora in grado di ripartire. E i regolamenti non permettono di alimentare animali da reddito con farine proteiche derivanti da insetti, quindi ecco. Dovremmo rischiare nel mettere su una produzione che poi non trova sbocchi commerciali, quindi certo. Adesso come adesso abbiamo messo un po' da parte questo settore. Ecco, avrete fatto sicuramente degli studi. Quali insetti sarebbero adatti per l'alimentazione animale e quali eventualmente per quella umana? Beh, allora, per l'alimentazione animale, quindi per ricavare farine proteiche, ci sono le parecchie larve di ditteri, che sono larve di mosche essenzialmente, e quelle si adattano bene perché si possono allevare su substrati poveri, diciamo. E per l'alimentazione umana ci sono tantissime specie, cioè basta girare un po' il mondo e si vede che si alimentano di svariate specie di insetti, dalle cavallette, grilli, formiche, ragni, le stesse pupe di bacco da seta vengono consumate, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. E sembra che siano alimenti anche molto proteici, molto completi. Sì, hanno un livello di proteina che non ha nulla da invidiare alla carne di migliore qualità e hanno un impatto sull'ambiente che è molto minore. È proprio per questo che risulta interessante mettere su una catena di produzione che possa soddisfare la necessità di proteine, insomma. Ecco, cambiamo un po' argomento, abbiamo parlato di questa cosa che magari ha lasciato perplesso qualcuno, ma gli animali che voi, gli insetti, le farfalle che voi allevate hanno anche un altro scopo, perché voi li utilizzate anche a fini di, diciamo, sfruttate la loro bellezza ed eleganza a fini così di rallegrare feste o eventi. Sì, diciamo che lo scopo comunque di fondo è quello di sensibilizzare le persone sull'utilità che possono avere gli insetti e ci arriviamo attraverso diverse strade. Una è quella dei kit, ne abbiamo già parlato prima, e l'altra è quella magari un po' più semplice e che ha un approccio un po' più scenografico, diciamo, ed è questa qui delle farfalle per gli eventi. Quindi come avviene questa cosa? Praticamente noi alleviamo all'interno della nostra azienda i bruchi di varie specie di farfalle comunque autoctone, quindi che poi una volta rilasciate in natura continuano con il loro ciclo vitale e non vanno a interferire sulle popolazioni che sono già presenti. Una volta allo stadio di crisalide le raccogliamo e appena dalla crisalide sfarfalla l'adulto, che è la farfalla vera e propria, e le consegniamo a chi ce le richiede e loro le liberano, quindi il primo volo lo fanno inaugurale, diciamo, lo fanno durante questi eventi, questi rilasci. Quindi non colombi, ma rilascio di farfalle. Sì, sì. Ecco, in che periodo dell'anno può avvenire questo? Ci sono dei periodi ben precisi? Oppure certo, sì. Allora, ci siamo imposti di fornire questo servizio solamente dalla primavera all'autunno, che è il periodo in cui poi le farfalle rilasciate in natura trovano le caratteristiche climatiche adatte alla loro vita. Ecco, mi sembra molto interessante, molto importante anche questa attenzione all'ambiente e al fatto anche che siano rilasciati degli insetti autoctoni e che quindi si inseriscono in un ambiente senza creare problemi di convivenza con altre specie. Volevo solamente in conclusione dare un'informazione su dove si possono trovare, per esempio, un insegnante che volesse avere uno di questi kit o qualcuno che organizza questi eventi e vuole mettersi in contatto con voi, come può farlo? Noi operiamo attraverso internet, quindi per i kit potete andare al sito www.smart-bugs.com, mentre per le farfalle per eventi sul sito www.farfallepereventi.com, la per di per eventi è una X. Perfetto, quindi Smart Bugs o per eventi. Grazie. Buona giornata a voi. Abbiamo tempo ancora per un paio di notizie. La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha approvato con 38 voti favorevoli, 6 contrari e 18 astensioni la proposta di risoluzione con la quale si invita l'Assemblea Plenaria del prossimo 11 aprile a premere sull'esecutivo europeo affinché non dia il via libera per altri 15 anni al glifosato. Questo principio attivo infatti è presente in numerosi erbicidi ma è fortemente contestato e oggetto di pareri diametralmente contrastanti. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ad esempio, lo ha considerato potenzialmente cancerogeno, mentre l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha definito questa sostanza probabilmente non cancerogena. A maggio si riunirà nuovamente il Comitato Fitosanitario, composto da esperti nominati dagli Stati membri, e se, come è successo lo scorso 8 marzo, non si raggiungerà una maggioranza, toccherà alla Commissione Europea di decidere. A giugno, infatti, scadrà l'autorizzazione per il glifosato. Di rara pianta è il titolo della manifestazione che si tiene sabato 16 e domenica 17 aprile a Bassano del Grappa all'interno dell'antico giardino botanico creato nel 1800 da Alberto Parolina. La manifestazione, ideata e curata dal botanico Giuseppe Busnardo e organizzata da Rotary Club Bassano Castelli con la collaborazione del comune di Bassano e del prestigioso orto botanico di Padova, è giunta alla 6ª edizione. Si tratta di 2 giornate dedicate alle eccellenze del giardinaggio, al collezionismo del verde e all'educazione alla natura. In occasione di questa edizione verranno presentati gli importanti interventi di restauro effettuati nel giardino nel 2015. Sono previsti mini corsi per aspiranti pollici verdi e visite guidate al giardino Parolini. Per la sola giornata di domenica 17 aprile è attivata un'area scambi di piante e semi alla quale parteciperanno gruppi di amatori e singoli appassionati. Ingresso libero dalle ore 9 alle 19, l'intero programma si trova sul sito internet www.tirarapianta.info. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. 4 elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.